Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi sulla giustizia a prendere il toro per le corna, ad esempio con una riforma costituzionale. Canale 5 scoppia il caso Mesiano, il giudice del lodo Mondadori spiato in un servizio televisivo, l'associazione Magistrati siamo esterrefatti. Tenere il Quirinale fuori dalla mischia mediatica e abolire il reato di vilipendio al capo dello Stato, l'invito di Giorgio Napolitano. Afghanistan, il Times insiste, gli italiani pagavano i talebani anche ad Herat. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione da Sofia, dove si trovava in Bulgaria in una visita ufficiale. Il Presidente del Consiglio ha rilanciato sulla necessità di riformare la giustizia. Prendere il toro per le corna e fare una riforma costituzionale, ha detto Berlusconi, che è tornato anche sul lodo Alfano. Praticamente la Corte ha detto ai pubblici ministeri rossi di Milano: riaprite la caccia all'uomo nei confronti del Premier. Critiche anche nei confronti della trasmissione TV Anno Zero, vadano pure avanti, tanto il vantaggio viene a me, ha detto Berlusconi, ma la gente finirà di pagare il canone della RAI. Il Presidente del Consiglio che sta rientrando proprio in questi minuti a Roma, ma sentiamo il passaggio sulla giustizia. Io sono per esempio per una riforma costituzionale che proprio prenda il toro per le corna, come usa dirsi, e che faccia del nostro paese una democrazia vera, non soggetta al potere di un ordine che non ha legittimazione elettorale, e quindi qui c'è un grande lavoro da fare. Oggi, se pensate bene a quello che sta succedendo, succede che una parte della magistratura molto politicizzata interviene con l'utilizzo della giustizia a fini di lotta politica, e poi su fino all'ultimo organismo dello Stato, che è la Corte Costituzionale, si praticamente pone in nulla le decisioni, ad esempio, del Parlamento, no? Il presidente Berlusconi non è nuovo a fare battute sul canone RAI, che sono di fatto un invito all'evasione fiscale, lo ha detto Paolo Gentiloni del Partito Democratico commentando proprio le dichiarazioni del Premier da Sofia. Il tentativo di indebolire il servizio pubblico, ha detto Gentiloni, si sposa con la tutela degli interessi proprietari delle sue televisioni, tutto questo usando l'arma dell'invito a non pagare il canone. Siamo davvero, ha detto Gentiloni, ai vertici del conflitto di interessi. E oggi nuovo intervento del capo dello Stato, che chiede di lasciare il Quirinale fuori dalla mischia mediatica e fa un invito. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. L'occasione per un nuovo intervento la offre al capo dello Stato la cerimonia al Quirinale per la giornata nazionale dell'informazione. Napolitano da una parte sottolinea la necessità di tenere il colle fuori dalla mischia politica e mediatica, dall'altra annuncia che non si opporrà a chiunque voglia abolire il reato di vilipendio al capo dello Stato. Quest'ultimo tema, lo ricordiamo, è tornato di attualità dopo che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo a carico di Di Pietro e del direttore di Libero. Il Presidente della Repubblica ha ricordato che il reato di vilipendio non è stato toccato dalla riforma dei reati di opinione di pochi anni fa. Giudichino poi i cittadini, dice Napolitano, che cos'è libertà di critica e che cosa non lo è. Sul tema informazione, ancora, il capo dello Stato ricorda: il pluralismo è insostituibile per la stampa e la TV, specie se pubblica. Un'informazione libera, conclude Napolitano, distingue la democrazia dal dispotismo. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. E lo scontro sulla giustizia tra la maggioranza di centrodestra e i giudici da una parte e l'opposizione dall'altra passa anche attraverso le trasmissioni televisive, come sentivamo. Ieri sera ad Anno Zero è stato preannunciato un intervento del Premier che poi non c'è stato. Intanto scoppia il caso del servizio mandato in onda ieri su Canale 5, in cui veniva spiato il giudice Mesano, quello della sentenza contro la Fininvest sul lodo Mondadori. Sentiamo. Pensate che cosa può avvenire in Italia se ogni giudice di ogni provvedimento viene inseguito poi da un rapinatore, da un ladro. Scuote la testa Luca Palamara, ha appena finito di rivedere su internet il servizio di Canale 5 sul giudice Raimondo Mesiano, e le prime parole che vengono in mente al presidente dell'ANM sono indignazione e incredulità. Le telecamere Mediaset si sono spente sul magistrato che ha condannato la Fininvest al maxi risarcimento di 750 milioni a favore della CIR per il lodo Riccardo Mondadori. Lo hanno seguito in un giorno libero, quando, per dirla con la giornalista, sveste la toga e si cala nei panni del comune cittadino, ma non uno qualunque, ironizza, perché alle sue stravaganze, preannuncia la voce fuori campo, siamo abituati. Quali sono? Eccole. Passeggia l'uomo Raimondo Messiano per le strade milanesi. Davanti al negozio del suo barbiere di fiducia attende il turno. È impaziente, non riesce a stare fermo. Avanti e indietro. Si ferma, aspira la sua sigaretta e poi ancora avanti e indietro. Si ricorda la promozione appena ricevuta dal CSM ma stabilita settimane fa e si ironizza nel servizio sulle sue attese da uomo normale in fila al barbiere davanti ad un semaforo rosso e seduto su una panchina. Camicia, pantalone blu, mocassino bianco e calzino turchese. Di quelli che in tribunale non è proprio il caso di sfoggiare. Non c'era alcuna malizia, si difende Claudio Brachino, conduttore della trasmissione, ma, fa notare il sindacato delle toghe, dalle telecamere di Canale 5 alle pagine del giornale, il giudice del lodo Mondadori è sotto i riflettori delle testate della famiglia Berlusconi. Si sollecita un intervento del garante della privacy, mentre il presidente della Federazione Nazionale della Stampa punta il dito contro un pestaggio mediatico. Visto che attacca sempre anno zero, il premier chiede Roberto Natale come giudica questo servizio. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo alle inchieste sulla presunta trattativa tra mafia e Stato nel 92 che potrebbero subire un'accelerazione dopo che ieri il papello che testimonierebbe le richieste della mafia è arrivato ai giudici di Palermo. L'omicidio di Paolo Borsellino rivela una incuria colpevole e irresponsabile, dice l'ex ministro della giustizia Claudio Martelli. Tutte le autorità erano state allertate, come mai non fu protetta la casa della madre nella quale Borsellino si recava ogni settimana? Quanto alla trattativa tra Stato e mafia, Martelli ha confermato ieri ai magistrati che Borsellino era stato informato, lo ha detto in questa intervista a Cristina Carpinelli. Era stato informato da Liliana Ferraro che aveva incontrato il capitano De Donno, che le aveva prospettato questa iniziativa autonoma da parte sua e del colonnello Mori di stabilire un contatto con Ciancimino al fine di evitare i rischi di ulteriori stragi. Oggi si sembrerebbe una cosa completamente diversa, cioè per l'appunto condizioni addirittura poste da Cosa Nostra, condizioni assurde, insomma cancellazione di leggi, di decreti appena approvati, insomma tutta una roba che non c'entra nulla con il contesto di allora, perlomeno quello di cui noi venimmo a conoscenza. Adesso bisogna capire se queste richieste della mafia contenute in questo papello, come viene chiamato, arrivarono prima o dopo l'uccisione di Paolo Borsellino. Lei un'idea se l'è fatta? Il papello contiene riferimenti contraddittori, parla di due ministri come Rognoni e come Mancino che non sono mai stati ministri nello stesso momento. Ci si riferisce poi al decreto, il decreto era tale prima dell'assassinio di Borsellino, perché pochi giorni dopo, in una settimana, venne trasformato in legge. Si fa poi riferimento alla chiusura delle supercarceri Pianosa e l'Asinara, che vennero certo preparate prima, ma rese adatte ad accogliere i boss mafiosi soltanto dopo la morte di Borsellino. Quindi insomma siamo ancora in un campo non indeterminato, abbastanza circostanziato, però non ancora precisato, e penso che il lavoro della magistratura sarà proprio quello di accertare l'autenticità. E così l'ex ministro della giustizia Claudio Martelli ai microfoni di Cristina Carpinelli. E 4 anni fa esatti, il 16 ottobre 2005, veniva ucciso Domenico Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria. Daniele Biacchessi. Siamo a Locri, in Calabria, domenica 16 ottobre 2005. Si vota per le primarie del centro-sinistra. Francesco Fortugno, 54 anni, vicepresidente della Regione Calabria, esce dalla sua abitazione a Brancaleone. Raggiunge con la sua automobile Palazzo Nieddu del Rio. Scende le scale del palazzo dopo aver votato. Davanti al portone si ferma a parlare con alcuni amici. Due persone, giovane età, aspetto normale, si avvicinano a Francesco Fortugno. Uno di loro, a volto coperto, estrae la pistola e colpisce il politico a distanza ravvicinata. L'ambulanza del 118 lo trasporta al pronto soccorso, ma non c'è nulla da fare. come è andata a finire? È andata a finire che il 2 febbraio 2009 la sentenza di primo grado nel processo per la morte di Fortunio condanna all'ergastolo gli imputati ritenuti esecutori materiali. Sono Alessandro e Giuseppe Marcianò, Salvatore Ritorto, Domenico Audino. Ma restano i mandanti di quell'omicidio, quelli che non sono mai stati scoperti. Per questo la moglie, Maria Grazia Laganà, chiede che le indagini vadano avanti, perché a suo avviso ci sarebbero fatti che devono ancora emergere. Indagini sui mandanti occulti, che devono proseguire soprattutto per quelle migliaia di ragazzi che, poco dopo la morte di Fortunio, hanno costituito un grande movimento antimafia, a testa alta. Daniele Biacchessi, GR24, Il Sole 24 Ore. Via libera da oggi al piano casa in 12 regioni. Prendono il via infatti i lavori per l'ampliamento volumetrico. Sentiamo. Si calcola che in Italia siano 10 milioni le famiglie che potrebbero ampliare del 20% la loro abitazione grazie al piano casa che da oggi diventa operativo in 12 regioni, quelle che hanno tradotto in norme operative l'accordo raggiunto in primavera con il governo. Via quindi agli ampliamenti volumetrici delle villette che tanto hanno fatto e fanno ancora discutere. Il governo ad esempio ha già impugnato due leggi regionali della Basilicata e del Lazio perché troppo restrittive. Tra le regioni dove la norma è entrata in vigore c'è anche la Lombardia, l'assessore regionale al territorio e all'urbanistica della regione, Davide Boni. Se il 20% degli edifici privati e l'un per mille degli edifici industriali adoperano questa norma, noi abbiamo circa un indotto di 5 miliardi di euro, con un risparmio energetico annuo di 600.000 megawatt. Se poi mi si dice questa è una norma che non è ambientale, vuol dire che evidentemente stavano scherzando. Intanto però Legambiente Lombardia ha presentato un esposto alla Corte di Giustizia europea, il presidente Damiano Di Simine. Non pone sotto tutela nessun ambito, neanche nei centri storici e nelle aree protette. Altre regioni hanno fatto un po' meglio, hanno quantomeno escluso aree sensibili dall'applicazione indiscriminata del piano casa. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. No alla fame in tutto il mondo è la campagna Stand Up per sostenere gli obiettivi del millennio delle Nazioni Unite. Da oggi e per il fine settimana un ciclo di manifestazioni. Sentiamo. Get up, stand up. Stand up for your right. Stand up, ovvero alzati e protesta contro la povertà, una manifestazione che coinvolge le vie e le piazze in giro per il mondo, sostenuta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli obiettivi del millennio. Tra questi, proprio quello di liberare il mondo dalla fame entro il 2015, mentre la FAO denuncia che sono più di 1 miliardo le persone che non hanno cibo a sufficienza. Anche l'Italia si mobilita con un calendario di iniziative, testimonial d'eccezione Carl Lewis, l'atleta americano oggi sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma alle 15 per il classico Stand Up, quando tutti i presenti si alzeranno in piedi per dire no alla povertà. A Palermo domenica mattina è prevista una biciclettata per la città, stessa idea seguita da Milano, che propone 6 percorsi fino ad arrivare alle 12 in Piazza Duomo per uno Stand Up collettivo. E grazie alla collaborazione con la Lega Calcio, domenica in tutti gli stadi di Serie A, tifosi e calciatori faranno Stand Up alle 15. Sono 12 cantanti che hanno aderito alla campagna. Paola Turci, Marina Rei, Caparezza e gli altri hanno girato un video appello disponibile su YouTube. Elisa D'Alto, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:17, ben ritrovati con il GR24. Nella prima parte abbiamo parlato delle parole di Berlusconi da Sofia, l'appello sulla giustizia, riformarla con una riforma costituzionale. E intanto scoppia il caso Mesiano, il giudice del lodo Mondadori, spiato in un servizio televisivo su Canale 5, il commento dei magistrati: siamo esterrefatti. E poi l'appello di Giorgio Napolitano, tenere il Quirinale fuori dalla mischia politica e mediatica, ha detto, e poi ha detto: sono disposto ad abolire il reato di vilipendio al capo dello Stato. Adesso le altre notizie. All'indomani della denuncia del governo italiano al Times, il quotidiano britannico insiste nel sostenere che gli italiani abbiano pagato i talebani per evitare attacchi ai militari e aggiunge che gli accordi furono raggiunti in tutto l'Afghanistan, non solo dunque nell'area inizialmente indicata di Sarobi, ma anche ad Herat. Salutiamo Alberto Negri. Buongiorno. Buongiorno a voi. A lungo inviato del Sole 24 Ore proprio in Iran. Alberto, trattandosi di servizi segreti, naturalmente è improbabile che si riesca a sapere la verità ufficiale su questa vicenda, ma dal punto di vista di un inviato che ha seguito da vicino queste situazioni, è verosimile che ci siano state trattative di questo tipo con pagamenti? Ma dunque, in Afghanistan si vive una situazione in particolare, soprattutto in alcune aree, e il passo di Sarubi è una di queste, perché è uno degli incroci fondamentali della via che da sud porta a Kabul, e se si controlla il passo di Sarubi si controlla anche la strada che porta alla capitale. Quindi è sempre stata teatro, tra l'altro, di agguati. In uno di questi morì tra l'altro la giornalista italiana Maria Grazia Cuturi nell'11 novembre del 2001. Ma la cosa interessante secondo me è questa, che il 26 maggio del 2008 la BBC mandava in onda un servizio molto positivo sull'azione di italiani proprio a Sarubi, spiegando come stessero costruendo delle infrastrutture in accordo con la popolazione locale. Perché in Afghanistan si paga due volte, si paga per fare la guerra, si paga per ricostruire, questo non c'è dubbio. Gli stessi marines, per esempio, quando battono una casa danno $2,000 alla famiglia che è stata colpita. Ma gli stessi marines, per esempio, in Afghanistan, ma in Iraq, hanno arruolato al loro servizio le milizie sunnite, questi le hanno messe in libro paga. Di solito si paga anche per ricostruire, cioè per fare quei lavori di cooperazione che vanno a vantaggio delle popolazioni locali, e questo non è un mistero, l'hanno fatto anche gli italiani, l'hanno fatto anche le altre cooperazioni internazionali. C'è una cosa da dire: prima di tutto, i capi afghani di solito non si comprano ma si affittano. Nel senso che i leader afghani, sia quelli tribali, sia quelli di talebani, se vengono compromessi, vengono compromessi per periodi temporanei o per brevi periodi. Questo può spiegare il fatto che dopo che gli italiani se ne sono andati, i francesi sono caduti in un agguato sanguinosissimo, ne sono morti 10. Di solito poi i servizi segreti, e non solo quelli italiani, certo versano dei soldi, ma cosa fanno? Comprano delle informazioni. Queste informazioni naturalmente possono anche servire per la sicurezza. Io credo che questo sia il quadro in cui ci stiamo muovendo lì. Grazie ad Alberto Negri, ripetiamo, a lungo inviato del Sole 24 Ore proprio in Afghanistan, e sicuramente questa vicenda avrà dei risvolti, visto che il governo ha annunciato una denuncia nei confronti del Times per queste notizie. E restiamo all'estero e andiamo in Iran, dove dopo che il paese è rimasto a lungo col fiato sospeso per la possibile morte della guida suprema Ali Khamenei, si sta diffondendo la notizia proprio della sua morte. Ci racconta tutto Farian Sabai. Sì, buongiorno a tutti. La notizia non mi era stata confermata né ieri né stamattina, e solo oggi verso le 12.30 ore italiane, cioè le 15 di Teheran, una fonte vicina al governo mi ha confermato, appunto in via del tutto informale, che il leader supremo era stato ricoverato nell'ospedale Chalus a nord di Teheran, vicino al Caspio, e sarebbe deceduto. La notizia non è però confermata a livello ufficiale, forse perché si temono disordini. Khamenei era leader supremo dal 1989, cioè dalla morte dell'Ayatollah Khomeini. In questi mesi è stato duramente contestato dall'onda verde di Mousavi, e proprio con Mousavi i rapporti non erano buoni fin dagli anni Ottanta, quando Mousavi era premier e Khamenei era presidente. Ma ultimamente il leader supremo era anche in aperto antagonismo con Rafsanjani, la terza carica dello Stato, e sarà proprio Rafsanjani a presiedere l'assemblea degli esperti che dovrà occuparsi della successione. E non si esclude, considerato la tensione di questi mesi, che il successore di Khamenei non sia un singolo individuo, ma un organo collegiale, proprio per ritrovare consenso tra le diverse fazioni. A te la linea. Grazie dunque a Farian Sabai. Adesso vi volevo parlare del nostro sondaggio. Il risultato di oggi, la domanda che vi avevamo posto è: a Olimpiadi 2020, in vista di questo appuntamento, ci sono già 4 città italiane candidate. Siamo credibili? Queste le vostre risposte. Le Olimpiadi del 2020 sono lontane, ma in Italia sembra già nata la nuova disciplina sportiva, la candidatura a ospitarle. Roma, Venezia, Palermo, con il sindaco però che dice di non essere stato neanche avvisato. Ora Bari. Sarà finita? Chissà, ma per il 92% dei nostri ascoltatori così l'Italia perde credibilità. Era questo il sondaggio di oggi e ne è convinto anche il vicepresidente del CIO, l'onorevole Mario Pescante. La candidatura olimpica è una cosa seria. Mi perdoneranno il termine, le città interessate sono rispettabilissime, quelle che si sono aggiunte alla lista, ma ho avuto un po' la sensazione di una specie di mucchio selvaggio. Io ho la sensazione ci sia più un intento del purché se ne parli che un reale interesse. Bianco o Nero torna lunedì mattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E continuiamo con lo sport, perché a proposito di ciclismo, oggi sulla stampa ci sono le prime indiscrezioni sul tracciato del prossimo Giro d'Italia. Non mancano le sorprese, almeno credo, Dario Ceccarelli. Ci sono sorprese e conferme? Sì, ce ne sono, anche se alcune erano attese. La sorpresa, diciamo, più importante è quella che è una conferma, cioè che a Milano non passerà il Giro d'Italia. E questo ribadisce così una specie di freddezza che ormai sta andando avanti tra la città lombarda e il Giro d'Italia. Nell'ultimo Giro d'Italia ci fu anche una mini contestazione perché i corridori andavano piano, poi addirittura ci fu un episodio con macchine parcheggiate male, quei corridori che infatti si rallentarono e protestarono perché la città non li aveva accolti come li doveva. E vabbè, questo quindi è un elemento. Gli altri elementi sono la partenza dai Paesi Bassi, da Amsterdam, una tre giorni di una finestra sull'Europa. E poi dopo invece un gran recupero delle montagne, che fu l'elemento un po' dimenticato dal precedente Giro d'Italia. Ci sarà il Monte Grappa, lo Zoncolan, Plan de Corones, l'Aprica, il Mortirolo, Santa Cristina, Gavia, che sono poi le tappe che piacciono tanto naturalmente agli spettatori, magari anche ai meno appassionati, perché sono i momenti in cui momenti si vede la gara dal punto di vista epico. Con questa presentazione del Giro si chiude un anno che tra l'altro con la gara di domani, se non sbaglio, Giro di Lombardia, ufficialmente l'anno si chiude, non positivo per il ciclismo. Ecco, solo una precisazione: non è ancora stato presentato il Giro verrà presentato il 24, però queste sono indiscrezioni che dalle maglie larghe dell'organizzazione del Giro escono. Sì, dicevi che non è stato un anno favorevole, sicuramente, perché al Giro d'Italia ha vinto un russo, al Tour de France Menchov, al Tour de France ha vinto Contador, uno spagnolo, ai mondiali non siamo andati particolarmente bene, era l'anno di Ivan Basso che doveva tornare dopo la lunga squalifica, non si hanno notizie, cioè poco pervenuto, e Cunego, che è sempre il golden boy, l'enfant prodigio, quello che si vuole, e rimane sempre in quell'incertezza tra corridore da corsa a tappe o corridore di giornata. Al momento nelle due incertezze rimane a metà e non si sa. Si spera che domani al Giro di Lombardia si lasci un vedere segno su questa stagione. Grazie Dario Ceccarelli. E adesso invece cambiamo decisamente argomento, perché parliamo di un grande musicista e cantante italiano scomparso 30 anni fa, un libro e un documentario per ricordare Demetrio Stratos. Il 13 giugno 1979 moriva a causa di una plasia midollare al Memorial Hospital di New York Demetrio Stratos. 30 anni dopo, la sua figura di artista, cantante e sperimentatore della voce rimane un unicum. Lo ricordano ora un documentario, La voce Stratos, di Luciano Donofrio e Monica Fatato, e il libro Demetrio Stratos, Gioia e rivoluzione di una voce, di Antonio Oleari. Un grande uomo che ha vissuto sempre con grande coerenza e con grande umiltà la sua carriera. Le scelte che ha fatto nella sua carriera hanno dimostrato poi quanto lui, più che il guadagno facile, cercasse una strada artistica ben precisa e che aveva trovato e che purtroppo si è interrotta troppo presto. Il libro ha la prefazione di un amico di Stratos, Gabriele Salvatores. Collaboravano al Teatro dell'Elfo di Milano e in particolare c'è un episodio che lui racconta, e Gabriele si ammalò anche lui, visse e condivise con Demetrio questo periodo particolare della malattia, e insomma ama ricordare la figura di Stratos, a cui addirittura vorrebbe dedicare un film. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora alla fiera del libro di Francoforte. Mentre il mondo dell'editoria cartacea si interroga sul futuro e soprattutto gli editori americani sembrano concentrati su quando e non più se gli ebook cominceranno a diventare una fetta consistente del mercato, il vecchio libro di carta, la Bookmesse di Francoforte, continua a essere merce ambita e scatena ancora polemiche. Così si tinge di politico un colpo messo a segno oggi da Garzanti, che si è aggiudicata un libro di Louise Young, autrice britannica che vive parte dell'anno in Italia. La notizia è che la Young ha rifiutato un'offerta piuttosto consistente fatta al buio da Mondadori. Il motivo? Mondadori è di Berlusconi e l'autrice non vuole essere pubblicata dalla casa editrice del Premier. Una singolare e forse discutibile posizione, visto che Mondadori non pubblica di certo solo autori schierati politicamente dalla parte del Presidente del Consiglio. Ma tant'è, il romanzo, il cui titolo inglese suona Mia cara, ti volevo dire, è la storia della Prima Guerra Mondiale vista con gli occhi di due donne. Quando uscirà da Garzanti, a fine 2010, nessuno si ricorderà più della vicenda della Buchmesse e verrà giudicato dai lettori solo sulla base della qualità letteraria, come è giusto che sia. Stefano Salis, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessio Maurizi, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. Adesso Stefano Pistolini, buongiorno America. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.